YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. Ieri sera il presidente François Hollande era accaduto da poco l'orrore, ne abbiamo parlato ininterrottamente da ieri sera a Radio 24, abbiamo seguito tutto il corso degli eventi, abbiamo cercato anche di seguire la notizia negli speciali di oggi, nel pomeriggio in diretta di Radio 24. Adesso è il momento di RadioTube, non abbandoniamo l'argomento e quindi buonasera anche a Daniele Bellasio. Buonasera, buonasera. Buonasera, ecco qui anche Daniele. Sì, noi di solito mandiamo in onda, mostriamo alla radio dei video che in qualche modo hanno raccontato la settimana. Quest'oggi cerchiamo invece di raccontare come i social network hanno raccontato le ultime ore e quindi cerchiamo di fare un po' d'ordine per quanto possibile. Segnalando quando i social network sono degli strumenti utili, vedremo diversi casi, quando invece sono degli strumenti anche per certi versi pericolosi, perché enfatizzano opinioni estreme e la rabbia del momento per certe cose, oppure perché alimentano delle imprecisioni di cronaca. E lo faremo con dei colleghi, dei giornalisti, e raccontando quel fiume di immagini, di idee, di sofferenza, di hashtag, di campagne, di controcampagne che in queste ore sta andando avanti sui social network. Intanto impazziscono anche i nostri di telefonini. Questo era il mio. Questo era il tuo. Questo lo confesso. Era il tuo. E gli account di Twitter, il mio chiocciola Marta Cagnola, quello Daniele chiocciola Daniele Bellasio, l'hashtag RadioTube, ma c'è anche il 349-238-6666 per i vostri sms, ma anche i vostri messaggi WhatsApp. La rete si è subito sto un po' perdendo i colpi dopo due ore. Sì, sì. Ma la rete si è accorta subito, per esempio, del fatto che anche il presidente francese faceva fatica, no? L'abbiamo sentito dalla voce, a trattenere le emozioni, anzi sembrava arrivato psicologicamente molto scosso al primo dei discorsi fatti ieri sera. Allora, io devo dirti che ieri sera ero davanti alla TV, stavo leggendo e stavo guardando la trasmissione di Crozza. Ho cominciato a vedere i primi tweet dalla CNN, in realtà, e ho avuto subito l'impressione che avessero detto qualcosa a Maurizio Crozza, che ha concluso la trasmissione sbrigativamente e anche in maniera abbastanza turbata, mi è sembrato questo. Poi è partita, io devo dire, l'incredibile diretta di Enrico Mentana, che al di là del fatto di cronaca, io lo devo dire dal punto di vista professionale, beh, vabbè, un uomo solo al comando. Sì, assolutamente. Però un comunque uomo solo insomma, al comando. Per ore un uomo. È un po' come quando in radio si apre il microfono e si va. E mi è sembrato un po' di tornare indietro sui social network a quello che avevamo commentato all'inizio dell'anno con il massacro. Sì, Sciacchetto. Forse questa volta però va detto, mentre l'altra volta i social network avevano avuto un ruolo quasi soltanto di racconto vero e proprio, per certi versi anche più concitato, perché ci ricordiamo le immagini prese dal tetto vicino a Charlie Hebdo, questa volta i social network hanno svolto più ruoli. Abbiamo detto che intanto sono stati strumento utile sui social network, subito i numeri di telefono delle ambasciate, i social network come Facebook hanno messo a disposizione nuovi strumenti come appunto il safety check per controllare se una persona, mandavano una mail, chiedevano un avviso, chiedevano alla persona che risultava in qualche modo legata a Parigi se stava bene. Sì, io sono rimasta molto attaccata a questo strumento. Sì, ed è partito praticamente immediatamente. Invece Twitter, su Twitter abbiamo visto la l'hashtag Support Ouvert, ovvero la possibilità per gli abitanti di Parigi che lo volevano di ospitare una persona che in qualche modo non riusciva per qualche ragione a tornare a casa in quelle ore lì concitate. E poi sono partite invece le campagne di solidarietà come l'altra volta. L'ultima di questi minuti, Not In My Name, è una campagna dove ci sono uomini e donne di religione musulmana che compaiono con immagini e con quella scritta. Allora, sono tantissimi gli spunti. Una delle prime cose che ho fatto ieri sera è stata appunto stare davanti alla mia timeline di Twitter con tante persone competenti e con una visione della politica estera sicuramente più tagliente, più approfondita della mia. Sicuramente una delle persone che io seguo con maggiore passione è Paola Peduzzi. Buonasera Paola. Buonasera, grazie. Paola Peduzzi firma del Foglio e sono contenta di averla disturbata per questo RadioTube. Ieri sera seguivo con davvero moltissima attenzione anche i tuoi il suo tweet. Lavoro, si può dire lavoro, certo, perché è una forma di giornalismo, diciamo così, fatto in momenti diversi da quelli tradizionali. Paola, raccontaci. Sì, è stata una serata molto concitata e il mio lavoro è stato appunto sia su Twitter, però anche il cartaceo, quindi c'era tutto la famosa convergenza tutta in due ore. Mentre succedevano cose incredibili, si accavallavano notizie, c'è stato un momento in cui non si capiva più niente di quello che stava succedendo, quindi come sempre l'utilizzo dei social è imprescindibile, ma anche bisogna un po' saperlo fare, trovare le persone giuste da seguire. È stato un gran lavoro. E come dicevate voi, appunto, ci sono stati anche gli hashtag di solidarietà, c'era anche quello adesso che va di più, che è Recherche Paris, che è quello per trovare le persone che ancora non si sono fatte sentire, e poi tutto il resto, le notizie, il racconto di che cosa stava succedendo. Mi ha colpito che una mezz'oretta fa il Monde ha pubblicato un articolo per dire tutto quello che pensavate fosse vero, che invece non è successo ieri sera, perché c'è stato appunto questo accavallarsi di notizie ovviamente determinato dalle testimonianze, da quello che i giornalisti vedevano. C'erano quelli della BBC che hanno fatto subito un account di tutti i giornalisti presenti della BBC a Parigi, in modo che si potevano seguire queste fonti, però sono circolate anche un sacco di notizie che non erano vere. Il Monde le ha appena messe tutte in fila. Il cosiddetto debunking. Allora abbiamo una brevissima pausa per la viabilità, poi abbiamo anche degli aggiornamenti di cronaca perché ci sta raggiungendo Maria Piera Ceci in studio. Una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme a RadioTube. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta YouTube. Gli aggiornamenti, la cronaca con Maria Piera Ceci. Sì, tre degli attentatori di Parigi sarebbero belgi e proverrebbero dal quartiere di Molenbeek di Bruxelles, da cui peraltro provenivano alcuni dei terroristi del blitz di gennaio in Belgio. Sono in corso proprio in queste ore perquisizioni nel quartiere e una persona sarebbe stata arrestata. Intanto fonti dell'intelligence britannica fanno sapere che autrice degli attacchi a Parigi sarebbe una cellula autosufficiente dell'ISIS formata da reduci dalla Siria. E si va chiarendo mano a mano l'identità degli attentatori di ieri a Parigi. Uno aveva un passaporto siriano, un secondo era di nazionalità francese ed è stato identificato grazie alle impronte digitali. Si tratta di due degli attentatori al Bataclan. Al Bataclan avrebbe agito anche una donna, secondo alcuni testimoni, ma non ci sono ancora riscontri su questa notizia. Passaporto egiziano invece per un terzo attentatore allo Stade de France. Il giovane con passaporto francese di cui parlavamo poco fa sarebbe un ventenne cresciuto in una banlieue parigina, era già noto ai servizi di sicurezza e schedato per la sua vicinanza con gli ambienti islamici più radicali e ritenuti a rischio. Altra notizia dell'ultima ora: uno degli attentatori, non è ancora chiaro quale di quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi, sarebbe un rifugiato arrivato dalla Grecia. Grazie a Maria Piera Ceci, ovviamente sempre in temporale gli aggiornamenti della redazione di GR24, ma siamo ancora con RadioTube, accanto a me come sempre Daniele Bellasio, sempre in collegamento Paola Peduzzi. Daniele? Paola? Sì? La curiosità di fronte a quello che è successo è cercare di capire perché questa volta è stato percepito come diverso. Intanto verrebbe da chiedere, ci voleva un'ulteriore volta per percepire, adesso diciamo l'11 settembre, peraltro probabilmente dimenticandoci invece di un sacco di altri fatti accaduti nel frattempo, perché questa volta suona così diverso e ci fa così più paura rispetto alle altre volte? Man mano che arrivano le notizie sembra davvero che si stiano concretizzando tutti gli incubi che avevamo. Quando si parlava dei rifugiati, potrebbero entrare i terroristi, adesso sembra che è passato dalla Grecia uno degli attentatori, le cellule interne che non riusciamo a controllare, le banlieue parigine, il reclutamento, l'incapacità dei servizi di intelligence di mettere insieme i punti, perché quando sono uscite le prime identificazioni subito la polizia ha detto è un profilo che conoscevamo, per cui tutto quello che non dovrebbe succedere, che speravamo che non dovesse più succedere, invece è accaduto. E il riferimento all'11 settembre, come dici tu Daniele, è un po' ingiusto nei confronti di Atocha, per esempio, certo. E anche degli attacchi di Londra, però ovviamente Parigi ha questo senso di simbologia della città che rappresenta l'Europa, poi era il venerdì sera, il momento del divertimento, quindi è proprio è diventato il simbolo del come siamo noi, che vogliamo andare allo stadio, vogliamo andare a sentire un concerto, vogliamo andare al bar con i nostri amici, e per questo i jihadisti ci odiano. Quello che ha twittato oggi Bernard-Henri Lévy, la capacità dei francesi di passare dei bei momenti insieme, la capacità e la volontà dei francesi di godere delle cose della vita, e non solo dei francesi, ma mi viene da dire degli occidentali. Paola, tu come stai lavorando in queste ore? Giusto. Questa risata mi fa capire, questa amara risata fa capire che ecco, non è facile, ma... No, sto lavorando guardando la televisione, su Twitter, sono inchiodata su Twitter da ieri sera, verso mezzo, non mi sono ancora staccata, e facendo telefonate a persone che sono a Parigi o esperti per cercare di capire che cosa sta succedendo, e appunto cercando di fare verifiche incrociate nel momento in cui si aggiungono altri pezzetti del quadro che si sta costruendo. Anche per i social network questa volta si ha un po' la sensazione che sia stata una prima volta, nonostante non si tratti del primo attentato che abbiamo vissuto molto attraverso questi nuovi strumenti. Perché secondo te anche da questo punto di vista sembra una prima volta? Perché ci sono stati, come ricordavate all'inizio, delle attività di solidarietà immediate e reattive, per cui subito la Porte Ouverte e la Recherche Paris ha dato questo senso di vicinanza e di solidarietà molto forte e molto utile. E poi c'erano molti giornalisti in giro, per cui hanno cominciato a circolare tante notizie anche solide, non soltanto di testimonianze, diciamo. E poi era talmente concitato, talmente tutto che succedeva una cosa via l'altra, guardi la partita e senti l'esplosione, non capisci, poi una vetrina che crolla, poi cominciano a dire l'uomo per strada col Kalashnikov. Insomma, è stata una prima volta perché è stato anche un susseguirsi di eventi concatenati ma rapidissimi. E tra l'altro crea anche una forma di giornalismo collettivo, perché ci sono collaborazioni tra giornalisti di testate le più diverse, a volte persino concorrenti, che si segnalano a vicenda, si correggono. Si fanno le domande. Dicono questa fonte è un fake, attenzione. Ci si avverte uno con l'altro per cercare di finire dentro a magari un loop che non è quello giusto, per cui c'era una solidarietà anche tra giornalisti che tendenzialmente invece non dovrebbero essere concorrenti. Paola, sì. Adesso Rouhani ha annullato la visita in Italia e Francia. Ci sono dei summit previsti e quindi l'attenzione resta alta. Ieri sera ha parlato Barack Obama. Adesso cosa dobbiamo tenere d'occhio? Ma allora, ci sono ovviamente questi tavoli che di cui parli. Si è appena concluso quello sulla Siria a Vienna. E domani comincia il G20 in Turchia. Credo che al momento la prima esigenza dei politici e dei servizi di sicurezza sia quella di garantire questa sicurezza, perché ovviamente questo senso di paura e di vulnerabilità molto forte, questa credo che sia la priorità. E poi ci sarà, secondo me, un'escalation dell'offensiva contro lo Stato islamico in Siria e Iraq. C'era già stata in questi giorni da parte degli americani, però contestuale c'era stato anche un'escalation da parte dello Stato islamico. L'aereo russo abbattuto non è confermato, però il bullismo dello Stato islamico che ribalta l'onere della prova e dice allora dimostratecelo voi che non siamo stati noi, dimostra che forse qualche coinvolgimento ce l'hanno. C'è stato un attentato a Beirut 2 giorni fa, per cui anche il loro fronte si sposta, e io mi immagino che ci sarà un'escalation anche da parte della coalizione internazionale. Paola, davvero grazie per essere stata con noi. Grazie. Paola Peduzzi del Foglio, buon Ciao. Lavoro, visto che saranno ancora ore molto, molto importanti. Allora ringraziamo e salutiamo Paola Peduzzi. Daniele, noi abbiamo ancora qualche istante, no, in realtà possiamo dare la linea alla pausa, abbiamo una brevissima pausa. E poi avremo un altro ospite che si è trovato a fare il giornalista tradizionale, cioè il semplice racconto della cronaca di quanto accadeva attraverso i nuovi strumenti. Lo faremo tra pochi minuti, Sì. Saremo ancora insieme con RadioTube. RadioTube. Eccoci ancora insieme con RadioTube, subito gli aggiornamenti da Maria Piera Ceci. Maria Piera. Sì, Marta, perché parlavamo poco fa di un attentatore che sarebbe transitato dalla Grecia. Ora si sono un po' chiarite le circostanze. Bene, il passaporto ritrovato accanto ad uno dei kamikaze della strage di Parigi apparteneva ad un rifugiato siriano registrato a Lesbo, dunque in Grecia, il 3 ottobre scorso. Lo ha fatto sapere poco fa il viceministro dell'interno greco Nicolaos Toscas. Grazie a Maria Piera Ceci e continuiamo con la cronaca, perché andiamo a Venezia, stiamo seguendo le manifestazioni in corso nelle città italiane. Andiamo a Venezia da Silva Menetto. Silva, buonasera. Buonasera a tutti. Noi ci troviamo in campo Manin, in centro, nel pieno centro storico della città, e c'è stata questa chiamata che è partita un po' dai social network, a cui poi si sono accollati anche il comune, ci sono le sigle sindacali, ci sono le bandiere della pace. In questo momento credo che ci siano all'incirca 300 persone, la manifestazione comincia qui alle 5:30, è una manifestazione silenziosa, nessuno ha molta voglia di commentare, tutti sono compatti nella speranza soprattutto di avere presto notizie della studentessa veneziana, di cui non si hanno più notizie dopo l'attentato al Bataclan di ieri sera. Questa ragazza di 28 anni non si sa ancora appunto che fine abbia fatto, gli amici dicono di averla lasciata nel trambusto dopo l'attentato e di non sapere più niente di lei. La madre ha rilasciato una dichiarazione solo all'ANSA, perché la famiglia non vuole essere più di tanto disturbata in questo momento, ma ha detto comunque che non risulta nei contatti con la Farnesina nella lista dei deceduti. E quindi in questo momento c'è soprattutto tanta speranza, si spera assolutamente di avere al più presto notizie di questa ragazza. Grazie. Silva, ci torniamo a collegare con te anche nei giornali radio e negli speciali, nello speciale in onda dalle 18 alle 20, quindi Silvia, non abbandonarci, torniamo a collegarci con te più tardi. Grazie a Silva Menetto da Genova, adesso però da Venezia, scusate, adesso però vorrei tornare a quello che è successo ieri sera. Ieri sera questa Marseillaise... Sì, sono i tifosi francesi che escono dallo stadio, tra l'altro in una partita che è stato un contenitore di decine di fatti contemporaneamente, un po' all'oscuro, un po' poi si sente il rumore, c'è un altro video che abbiamo visto spesso in rete in queste ore e che fa sentire molto bene il rumore, e lo stadio è un po' anche simbolica come cosa, è il centro del fatto, certo, che si stava giocando Francia-Germania, peraltro l'asse motore dell'Europa in questi ultimi anni, e dallo stadio è un po' partita la serata dei racconti, e un giornalista che si trovava a Parigi in quel momento, un giornalista che ha diretto anche un giornale italiano molto noto Europa, ha iniziato a fare il suo lavoro di cronista utilizzando tutti gli strumenti possibili e immaginabili, social network e poi il racconto in televisione. Lo abbiamo al telefono e ci facciamo raccontare da Stefano Menichini, direttore, buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera Stefano. Ciao. Come è iniziato il tuo improvviso lavoro di cronista? Perché eri lì per tutt'altro e improvvisamente... Come, raccontaci che cosa hai provato e come hai veramente avviato la, come dire, la tua professionalità in quel racconto. Ma io ero qui, sono qui in vacanza con la mia famiglia per qualche giorno in un posto molto carino vicino a Notre Dame, e eravamo tornati a casa da cena e stavo guardando un attimo i social e stavo anche contemporaneamente dando un'occhiata alla partita, e quando sono cominciate a uscire queste prime notizie, e finché la cosa, diciamo, era tra virgolette limitata allo Stade de France, che è a Saint-Denis, è abbastanza, diciamo, fuori dalla città di Parigi, e così stavo soltanto seguendo un po' attonito. Poi quando nel crescendo della notte gli eventi si sono avvicinati al centro della città e mi sono rivestito e sono uscito e ho cercato di avvicinarmi prima con una fermata della metropolitana, poi a piedi verso il Bataclan, il teatro che quando sono arrivato io era ancora preso in ostaggio dal comando terrorista. Per farlo ho camminato lungo Boulevard Richard Lenoir e mi sono ricordato di essere passato lì pochi mesi fa, quando ero andato a vedere i luoghi dell'attentato a Charlie Hebdo, che è stato esattamente in quella stessa zona di Parigi, e sono passato a fianco al luogo dove è stato ucciso, ricorderete, un agente di polizia dal comando che scappava dalla redazione di Charlie Hebdo, e niente, sono arrivato fin dove la polizia consentiva di avvicinarsi, cioè a 200 metri dal teatro, nel frattempo si erano aggiunti diversi colleghi giornalisti un po' di tutto il mondo e soprattutto cittadini e abitanti del quartiere che cercavano di entrare nelle loro case, cosa che gli è stata resa impossibile per molte molte ore. Credo che questo sia stato anche il motivo di quella specie di mobilitazione che è partita sempre sui social per dare ospitalità ai parigini rimasti per strada, perché un perimetro consistente della città, io in quel momento mi trovavo lì, ma poi c'erano altre zone isolate più o meno sempre lì intorno, dove intorno ai, ai, ai bistrò, ai ristoranti che erano stati colpiti dai commando terroristi. Secondo me, credo, io adesso non conosco, non so che punto sono le indagini, ma secondo me in una serie di azioni che volevano essere, come forse anche le esplosioni dello Stade de France, un diversivo terrificante e omicida, per poi convergere sul Bataclan, sul teatro che era chiaramente l'obiettivo principale. Forse, Daniele, non lo so, in una sinistra ripetizione, non so se ricordi, dell'occupazione, certo, del teatro Dubrovka, sì, a Mosca, da parte di un comando di ceceni, ormai credo 13 anni fa più o meno. Stefano, a me ha fatto ero avvinta al tuo flusso di tweet, perché io ho immaginato quello che potessi provare in quel momento, cioè io sono qui e anche se non sono qui per lavoro, comincio a camminare, sì, a fotografare, a fare delle riprese e non riesco a fermarmi perché voglio andare avanti e camminando capire. Questa era la sensazione che attraverso quello che tu hai testimoniato sui social network, su Twitter ieri sera, io avevo. Ma guarda, sono cose che vengono un po' istintive, insomma dopo qualche anno, dopo parecchi anni per la verità, di mestiere, cose che una volta avrebbero richiesto, diciamo, colpi di fortuna improbabili, trovare telefoni da qualche parte, che adesso invece sono anche relativamente più semplici da fare. Avevo persino provato a fare una diretta con Periscope, ma con un risultato scarso per via della scarsa banda. Sì, insomma, soprattutto sono rimasto colpito perché a un certo punto mi sono reso conto, dalle telefonate che arrivavano dalle redazioni dei principali network televisivi italiani, che probabilmente per un caso, per una circostanza, in quel momento ero l'unico giornalista italiano che fosse lì vicino, e quindi questo, diciamo, immaginandomi di essere dall'altra parte, mi sono reso conto che mi caricava anche di una certa responsabilità, e la cosa quindi mi ha ulteriormente coinvolto, e ho cercato di fare il mio meglio. Ricevevo molti messaggi di amici, colleghi, parenti che mi chiedevano di stare attento. In realtà non c'era, nella situazione nella quale mi trovavo, non c'era alcun autentico pericolo. Sì, forse, diciamo, al momento di uscire di casa, quando ancora si vociferava per tutta Parigi di commandos ancora in circolazione, di sparatorie alle Salle, che sta praticamente qui a 500 metri da dove mi trovo adesso, e cose di questo tipo, lì forse in quel momento una punta di paura hai avuto? Beh, insomma, diciamo, se non altro di attenzione, però poi vedi, insomma, più o meno la serata della città stava in un'assurda normalità, stava scorrendo comunque, la gente tornava a casa tra sirene spiegate e assedi delle polizie. Ecco, la normalità mi pare il centro, il dubbio in questo momento. Non chiedo a Marta se abbiamo tempo, avevo una domanda. Abbiamo, sì, abbiamo tempo. Sto leggendo che Vasco Rossi ha appena scritto sulla sua pagina di Facebook: noi non abbiamo paura, non cambieremo le nostre abitudini e non cambieremo di certo i nostri valori. Però stiamo anche leggendo in altre agenzie che si discute di chiusura delle frontiere, di nuovi controlli, l'Europa, come sempre, forse un po' in ordine sparso, i singoli governi stanno decidendo cose, insomma è risuonata persino la parola coprifuoco da parte della possibilità dei comuni sparsi per la Francia di prendere decisioni di questo tipo. La domanda che ti faccio, un po' fuori dal racconto, è proprio questa: davvero proseguiremo con la nostra normalità, non cambieremo le nostre abitudini, o questa volta sta succedendo qualcosa di diverso? Guarda, io ho istinto, stanotte tornando verso casa, ho avuto l'impressione che no, che alla fine, per quanto assurdo possa sembrare dirlo adesso, c'è una normalità che può anche nascere da una cosa che considero negativa, che è l'assuefazione, c'è una normalità che può comunque imporsi, perché poi in grandi metropoli come queste alla fine i tempi della vita e perfino del divertimento sono sembrano irrinunciabili. Adesso, in questo momento, oggi, Parigi è una città sospesa, le strade sono semideserte, negozi chiusi, soprattutto nella zona diciamo più colpita dagli attentati, e poi ci saranno sicuramente i giorni delle grandi mobilitazioni, come già ci sono state nel gennaio scorso, e dell'emozione, del dolore, però io sono avverto fisicamente la pressione di una volontà di continuare nonostante tutto e contro tutto. Poi dopo c'è la politica, ci sono le dinamiche della politica, ci sono le spinte e c'è anche da parte dei governi e per esempio qui in Francia da parte dei servizi di sicurezza la responsabilità e il dovere di rispondere di quello che è successo. Il fatto che miliardi e miliardi spesi per sistemi di controllo super sofisticati non riescono a rilevare l'organizzarsi di un comando così corposo e ben armato come quello che ha operato questa notte, ma questo diventa un altro discorso. Stefano, ti abbiamo disturbato, so che in tanti in queste ore ti stanno chiamando appunto perché hai fornito una testimonianza davvero preziosa e continui perché ho visto che oggi sei tornato e hai ancora raccontato, hai ancora scattato foto, hai ancora seguito su Twitter quello che sta succedendo, quindi davvero grazie a Stefano Menichini, continuiamo a seguirti e continua a informarci, grazie per essere stato con noi Stefano. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie, ciao, direttore. Noi ci risentiamo tra pochissimo, ancora gli aggiornamenti per chi viaggia, poi gli ultimi minuti di Radio Tube insieme. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Radio Tube. Sempre insieme con questa puntata di Radio Tube che si sta per concludere, abbiamo ancora pochi minuti, una lunghissima diretta di Radio 24 e poi 24, altre due ore di poi, tutte le novità lo speciale inchieste di Simone Spezia dalle 18 alle 20, ricordo anche l'appuntamento con Storiacce di Raffaella Calandra questa sera alle 21.30, tanti appuntamenti. Sono successe tante cose a Parigi, anche alcune cose che ci hanno fatto commuovere e sperare che un po' di umanità esista ancora. Portato con una bicicletta fino a Rue Richard Lenoir, vicino al Bataclan, il suo pianoforte, si è messo a suonare Imagine, con un pianoforte consegnato il simbolo della pace e si è radunata attorno a lui una folla. Una folla anche per ribaltare quelle terribili immagini invece delle persone aggrappate alle finestre o delle persone che scappavano dall'uscita laterale del teatro, peraltro anche aiutando feriti o trasportando persone al limite della loro sopravvivenza. A proposito del Bataclan, c'è Cristiana Raffa che ci twitta, si riferisce alla tua affermazione che hai detto poco fa di Vasco Rossi, non abbiamo paura, non cambieremo abitudini, e al fatto che, come dicevamo invece durante il sabato del villaggio, i Foo Fighters abbiano deciso di invece annullare il loro tour, compresa la data di questa sera a Torino. Sono state sospese le competizioni sportive, ci sono già delle cose. È un momento molto, molto complicato. Sì, tornerei a collegarmi con Parigi. Gigi Donelli, Gigi, buonasera. Adesso dove ti trovi? Cosa Ciao, sta Marta, succedendo? Buonasera. Mi trovo, state parlando del Bataclan, io mi trovo di fatto all'altezza del numero 30 del Boulevard Voltaire. Al numero 50 c'è il teatro e qui invece c'è il punto di blocco dove la polizia appunto ferma di fatto i curiosi e una grande massa di giornalisti che da tutto il mondo sono arrivati qui nella capitale francese. A proposito di umanità, qualche momento fa c'era uno scambio tra una bambina che avrà avuto un paio d'anni e un poliziotto, appunto un CRS, che controlla gli accessi. Segni di umanità, secondo me, se ne vedono molti, come accade proprio nelle grandi tragedie. Non posso non evocare e ricordare quello che era l'esperienza anche personale del dopo 11 settembre, con tutte le grandi differenze, ma questa fortissima voglia di stare per strada, proprio il contrario di quello che il terrorismo internazionale spinge a fare. Quindi anche qui stasera dovete immaginare una città tutt'altro che deserta, una città che certo a mio avviso ha l'aria un po' persa, per cui c'è gente che va in giro, c'è gente che si ferma sotto la grande statua di Place de la République. Poco fa la polizia nuovamente, io ero insieme a un gruppo di ragazzi che posavano dei lumini, la polizia gentilmente ma fermamente ha invitato tutti a spostarsi, perché come sapete il quadro generale di questa sequenza terroristica, che è iniziata nemmeno 20 ore fa, è tutt'altro che concluso. Grazie a Gigi Donelli, che ritroveremo nell'edizione del giornale radio, nello speciale. Grazie Gigi. Gente in piazza anche qui in Italia, abbiamo sentito nei nostri collegamenti, tutti i siti stanno mostrando video in diretta delle manifestazioni che ci sono. Marta, dobbiamo dirlo, ci sono state in rete anche delle polemiche, anche lo abbiamo poste, detto, sì, c'è stato il titolo di Libero, sì. c'è tutto un filone di polemiche attorno al giubileo, sì, no, forse, però forse non era questo il momento di raccontare il fatto che la rete sia anche capace di enfatizzare gli aspetti più estremi delle nostre discussioni. Sì, devo dire che meglio raccontare. Ieri sera ero molto turbata dal fatto che molti si mettessero a fare polemiche sui tweet di questo quest'altro politico. Io avrei voluto la mia timeline senza politica. Con quello che stava succedendo, volevo capire. Sì, sì, infatti, il racconto, c'è un tempo per ogni cosa. Senza perdermi in magari del racconto, semmai della solidarietà. Peraltro anche bellissimo. Google, abbiamo ricordato che Twitter ha fatto l'hashtag Porte Ouverte, Facebook il safety check per sapere se una persona stava bene pur essendo a Parigi, Google ha fatto fare le chiamate, gli hangout gratuiti per entrare in contatto con le persone che stavano in Francia. Beh, come il momento bellissimo di quando ieri sera i tassisti francesi hanno spento i tassametri, certo. E portavano anche i giornali online francesi hanno aperto i firewall, perché era il momento di spostarsi liberamente, di informarsi liberamente. È volato il tempo, sono volate queste tre ore che io ho cercato di passare nella maniera più onesta possibile, perdonatemi per quello che posso aver sbagliato. Scherzi, ci ho provato. Sei bravissima, ci ho provato. Marta. Allora, ho un sacco di ringraziamenti, Daniele. Faccio tutto un elenco. Io mi associo a prescindere. Filippo Aureggi in regia. Mitico, severo, che mi ha supportato. Mitico. Cristian Goldoni, senza il quale niente in questa giornata, soprattutto quando mi ha tenuto calma che mi stavo arrabbiando. Cristian Goldoni mi controlla e non è nemmeno severo. No? Devo ringraziare Michelino Previato. Perché lo sa lui? Perché? Sì, lo sa anche Rocco. Lo sa anche Rocco. Devo mandare un bacio a Rocco. Devo ringraziare Daniele Bellasio, che è stato con me nell'ultima ora di Radio Tube, che lo dico buona sempre. Buona serata per quanto possibile oggi. Sì, lo dico dire. Sempre, è l'ora più bella del sabato, anche in questo sabato molto grazie. Difficile, devo dirlo, è l'ora più bella del sabato, quindi giornale radio delle 18, lo speciale dalle 18 alle 20 con Simone Spezia, gli aggiornamenti della redazione di GR24 e speriamo di poter passare sabati più sereni, più piacevoli insieme. Alla prossima settimana.